I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Eppur si muove, stiamo parlando del mercato immobiliare, del mattone, i cui prezzi per la prima volta da 5 anni a questa parte, a fine del 2016, sono tornati a crescere. Una variazione per il momento ancora simbolica, più 0,1% rispetto a un anno prima, ma che va confrontata con un calo complessivo nel 2016 dello 0,7%, un calo ancora più insistito nel 2015 del 2,5% e soprattutto, se si prende il prezzo del mattone nel 2010, il calo negli ultimi 6 anni è stato di quasi il 15%. In realtà anche questo dato va analizzato, il calo del 15% è composto da un calo di quasi il 20% del prezzo del mattone delle abitazioni già esistenti e un calo invece del metro quadro del 2,3% per le abitazioni nuove in questi ultimi 6 anni. Ma tornando al segnale di risveglio di fine 2016, gli esperti prevedono che nel 2017 si assisterà comunque a un prezzo dell'immobile con il segno più 0,6 o 0,7%. Presto per dire che il mercato è tornato a crescere in maniera strutturale, ma sicuramente dopo un anno passato a vedere crescere le compravendite, ebbene l'aumento delle compravendite si sta trasferendo anche sui prezzi. Presto per parlare di un risveglio vero e proprio, ma sicuramente la caduta sembra essere terminata. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Provate a immaginare di avere una buona idea e magari di riuscire a trasformarla in un prodotto, in un servizio, di farne insomma un'impresa, l'impresa della vostra vita, intesa anche come avventura professionale e umana. Immaginate di riuscire a organizzare le persone che vi lavorano, i capitali necessari a dare ossigeno finanziario ai progetti, i fornitori e magari anche la complessa rete indispensabile per portare quel business oltre i confini nei mercati globali. Dovete pensare però che su 100 euro fatturati, 64,8 finiranno in tasse. Non è un proclama corporativo o solo propaganda, è il dato del cosiddetto total tax rate che proprio oggi ha ricordato la relazione della Corte dei Conti. È giusto? No, naturalmente, anche perché, come hanno detto sempre i magistrati contabili, l'Italia paga 25 punti in più della media europea. Non basta, solo per adempiere agli obblighi fiscali un imprenditore italiano deve mettere in conto 269 ore di lavoro, il 55% in più di un collega europeo. Non è un tema di poco conto, questo della pressione fiscale insostenibile in Italia. Dietro questo squilibrio, tra l'altro, vi è anche quello del cosiddetto cuneo fiscale, la distanza che separa il salario di un lavoratore dal costo del lavoro pagato dall'impresa. Ebbene, in Italia è del 49%, 10 punti in più della media dei paesi OCSE, dove il nostro paese è al quarto posto quanto a onerosità. È per questo che è decisivo affrontare il tema nell'ambito della prossima manovra di bilancio. L'Italia sta ripartendo, e lo ricorda sempre oggi la Corte dei Conti, ma per cavalcare davvero la ripresa, quel famigerato cuneo deve assottigliarsi. E fa bene il governo a studiare forme che lo alleggeriscano, almeno per creare un po' di occupazione tra i giovani. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.